Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Le tristezze non sono eterne quando procediamo verso quello che abbiamo sempre desiderato. Sti cazzetti. Tratto da Monte 5. Paolo, quello che scrive. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. È vero, è vero. M2O, musica allo stato puro. Se ripete sicuro, se dico fermate. Avanti, ma sta attento al convento. Non lo so che mi è uscito fuori. Ciao, sono l'inventore del lento violento e me ne vento. Il lento violento non è un genere musicale, ma un modo nuovo di salire le scale. Forse così può sembrare insensato. In effetti il concetto non è ponderato. Io penso che il senso sia un po' tutto attorno. Le scale sono quelle che sali ogni giorno. Ma ciao proprio, una salutata generale. E patapuffiti! Prima. Oh, va piano che mia madre si sveglia. Patapuffiti.

cammino di Gigi D'Agostino. Tutto a posto. Sì, sì. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. Agostino, mica noccioline. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Ciao, sono Gigi D'Agostino, quello là. Il cammino è questo qui, tu rimani fermo lì. Se hai coraggio, fatti sto viaggio. We'll be right back.

ti piace, così la storia è la scrivi la tu, magari più bella. Se non ti piace, così la storia è la scrivi la tu, magari più bella. Magari più bello.